strade intasate dal traffico che c'è, bimbi sopra i marciapiedi che vanno a casa ormai, le vetrine dei negozi scintillano già da un po', la gente si ritana in questa sera d'inverno e ci sei anche tu. Cammini fra la folla anche tu, indifferente fra la gente che non vede ormai più niente, che si sente come te, come me. Dove se ne vanno poi i sogni che uno mette via a tenerseli per sé? Non penso che diventeremo tutti un po' così, confusi fra la nebbia e questi volti tutti uguali. Lo sarai anche tu, confuso tra la gente anche tu, nascosto in questo freddo che ci rende come ombre, non saranno come te, come me, come me. Che cammini per le strade anche tu, tra le auto prese errate anche tu, mentre inciampi dentro un sogno ti ritrovi ad occhi aperti. Let's go!